spero di non deluderla presentandomi come uno dei pochissimi italiani ricchi. No, pensavo, ecco sì. No, e perché dovrebbe deludere me personalmente poi? No, perché in genere siamo abbastanza anzi, nascosti. Siamo tutti orecchie, perché sembra che siate introvabili e quindi... Ecco, no, infatti mi presento. Dunque, noi ricchi, cioè classificati come dal Ministero dell'Economia, IRPEF 2010, i contribuenti che hanno dichiarato oltre i 100.000 euro lordi di reddito, sì, siamo lo 0,9%, quindi ho i dati davanti, 394.000, pochini, pochini, sì. E mentre diciamo da 0 a 40.000 euro gli italiani più sfortunati sono ben 38 milioni, quindi c'è una differenza notevolissima, e costituiscono il 92%, mentre io faccio parte dello 0,9%. E ho dovuto un pochino faticare a miei figli, per spiegare ai miei figli la fortuna di avere un papà, tutto sommato, fortunato e ricco. Se io, con uno stipendio così, sono riuscito a farmi un appartamento a 52 anni, dichiaro quanto l'ho pagato, 350.000 euro, con 100.000 euro di mutuo, la mia famiglia non era modesta, era sull'orlo quasi, come dire, un po' della povertà, diciamo. Mio padre, quando è morto, ha lasciato 20.000 euro di eredità. Mm-hmm. E quindi, se consideriamo anche una grossa capacità di risparmio, mettiamo 2.000 euro al mese, che fanno 20-22.000 euro al mese, ci vogliono 20 anni per fare 400.000 euro. Sì. Quindi, come dire, la cosa che stride completamente è che come possono essere l'86% i ricchi d'Italia, di cui la stragrande maggioranza dipendenti, e altrettanta forte maggioranza pensionati. Di reddito d'impresa sono circa 83.000 e gli autonomi 14.000. Quindi veramente non parliamo di cose assurde, un pochino ridicole. Per lavoro sono stato in tanti anni, forse più di 150 volte negli Stati Uniti, e le posso garantire che la reputazione sociale nei confronti dell'evasione è di disgusto, perché l'evasore è considerato colui che ruba a tutti, e quindi è colui che ruba anche alla mia famiglia, perché lo Stato, avendo meno entrate, può garantire meno servizi. Chiaramente ci lamentiamo di una pressione fiscale eccessiva, dal momento che una gran parte dei lavoratori dipendenti e pensionati normali paga per coloro che evadono in realtà. Quindi l'indignazione vera che vorrei vedere nei miei concittadini è nei confronti dell'episodio di Cortina. Non conta niente, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi nelle città, nei paesi, dovunque. Quello che veramente manca, perché purtroppo in fondo forse l'italiano in qualche maniera, pur non avendo dei mezzi, vorrebbe emulare colui che ha grossi introiti e evade, è la mancanza quindi di sfiso sociale, l'indignazione vera verso coloro che rubano alle nostre cioè lei famiglie. Dice funziona di più lo spirito di emulazione del, diciamo così, classifichiamo ricco evasore che si fa la bella casa facilmente e non, come dice lei, in tutti questi anni, piuttosto che uno spirito di categoria del cittadino contribuente, buon contribuente. Magari parliamo di persone che pagano le tasse, lei dice, però funziona più questo spirito, che invece lei in altri paesi non ritrova. Però se è così, allora la conclusione è che siamo disperati, perché è un problema nelle nostre teste. Concordo pienamente su questa analisi, siamo disperati. Consideri che anche, devo dire, è stato uno dei motivi fondamentali, un figlio laureato, lavoro a tempo indeterminato con una grossa multinazionale in Italia, a tempo indeterminato, ha lasciato cercando lavoro in Inghilterra, che ha trovato, perché mi ha detto: papà, non è un paese più vivibile. E questo, ripeto, non in assenza di lavoro, non in assenza, quindi non in presenza di disperazione sociale. Lei c'è mai stato in vacanza a Cortina? A Cortina ci sono stato, forse avevo 15 anni, quindi non ho ricordi, no, non vado a Cortina. Sì. Dove va? Normalmente no. Vado d'estate con lo scooter, pensi un po', in vacanza, mi piace, odio la macchina, sì. E quindi dalla Sardegna, la Puglia, la Toscana, ma normalmente almeno gli ultimi 4 anni lasciato la macchina e vado a discutere. Niente montagna d'inverno, niente luoghi tipo St. Moritz, queste cose qua. No, anche perché, cioè, a parte che per me viaggiando tantissimo, per lavoro, per il mondo, la vacanza è stare il più possibile quando posso a casa, quindi ho questo bias, questa come dire, pregiudizio dovuto proprio al lavoro. Non cerco la mondanità, né, a parte ripeto, non potrei, ma soprattutto però la vacanza a Cortina se la potrebbe permettere, no? Io credo la vacanza sicura, sì. Guardi, le ho detto io, sì. Sono tra lo 0,9% ricco dichiarato, ricco. Poi giudichi lei, ripeto, ho uno stipendio netto di 4.000 euro al mese.